Ciao ragazze! Ciao! Ciao! Dai, va bene, iniziamo! No, no, buonasera, buonasera, ben ritrovate, ben ritrovati su Radio Wombat, questa è la radio libera e autogestita di Firenze. Io sono Addu, qui con voi, e questa è di nuovo Nervature, ovvero la trasmissione che vi parla di piante, giardinaggio, botanica, progettazione, urbanistica, chi più ne ha più ne metta. Questa è la prima puntata di un nuovo audiolibro. Ho fatto un audiolibro su questa trasmissione riguardo al libro E il giardino creò l'uomo di Jordo Pressy. Vi invito quindi ad andare a riprenderlo sempre dal sito della radio, radiowombat.net. Trovate tutti i podcast. Oggi invece iniziamo, quindi questa è la prima puntata di un nuovo audiolibro. Audiolibro del libro La nazione delle piante, dell'autore Stefano Mancuso, autore ormai molto molto rinomato nell'ambito della botanica, della biologia e anche più in senso allargato nella divulgazione scientifica. Infatti ormai Stefano Mancuso è nato come professore ricercatore all'Università di Firenze a biologia, in particolare ovviamente nel settore della botanica, quindi della biologia vegetale, ma ormai è diventato un personaggio famoso a livello internazionale, quindi una figura molto molto importante nell'ambito appunto della divulgazione scientifica proprio dei temi riguardanti la botanica. Dunque, il libro La nazione delle piante è del 2019, edito da La Terza. Non è il primo libro dell'autore Stefano Mancuso, ma lui ne ha scritti tanti altri, a partire da Verde Brillante del 2013, poi tantissimi altri, ne cito solo altri due: Botanica, Viaggio nell'universo vegetale 2017, Fitopolis 2023, per citare l'ultimo, uscito da poco. Dunque, quindi questa è la prima puntata, ma prima di iniziare vi ricordo i contatti della radio. Radio Wombat la potete trovare su streaming, quindi su radiowombat.net, ovvero il sito, ripeto, da cui trovate anche tutti i podcast della mia, ma di anche tutte le altre trasmissioni attive e non. Ci potete trovare però e ascoltare in diretta sulle 13.59 frequenze AM, magari se siete in macchina nell'area fiorentina. Sul sito, dalla sezione contatti, trovate anche tutti i modi per entrare in contatto con noi, il pad per chi vuole parlare con noi in diretta, oppure la casella di posta per proposte o osservazioni. Bene, iniziamo quindi subito, mi metto subito in sottofondo un po' di musica e a brevissimo iniziamo questa prima puntata dell'audiolibro. Thank you. La nazione delle piante, libro di Stefano Mancuso, 2019, edito da La Terza. Prologo. Esattamente 50 anni fa, alla vigilia di Natale del 1968, la missione Apollo 8 portava per la prima volta nella storia un equipaggio umano in orbita intorno alla Luna. William Enders, Frank Borman e James Lovell furono i primi fortunati mortali a poter osservare il lato nascosto del nostro satellite e a rimanere incantati davanti allo spettacolo della Terra che sorge. Nel corso di quella missione, durante una delle 10 orbite intorno alla Luna, William Enders scattava una foto che sarebbe diventata celebre, entrando di diritto fra le icone della recente storia dell'umanità, l'alba della Terra vista dalla Luna. Ognuno di noi in qualche occasione l'ha vista riprodotta. Rappresenta il globo terrestre, parzialmente in ombra nella parte inferiore, con il sud in alto e l'America meridionale nel centro della foto, sorgere oltre l'orizzonte lunare. Un mondo azzurro e verde, con le nuvole bianche che intessono delicatamente l'intera superficie. Quella foto, chiamata dal suo autore Earthrise e catalogata dalla NASA con la meno poetica sigla AS814-238-3HR, cambiò per sempre la nostra idea della Terra, rivelandoci un pianeta di maestosa bellezza, ma anche fragile e delicato. Una colorata isola di vita in un universo per il resto vuoto e buio. Un pianeta verde per la vegetazione, bianco per le nuvole e blu per l'acqua. Questi tre colori, che sono la firma del nostro pianeta, per un motivo o per un altro, non esisterebbero senza le piante. Sono loro a rendere la Terra ciò che conosciamo. Senza piante, il nostro pianeta assomiglierebbe molto alle immagini che abbiamo di Marte o di Venere, una sterile palla di roccia. Eppure, di questi esseri che rappresentano la quasi totalità di tutto quello che è vivo, che hanno letteralmente formato il nostro pianeta e dai quali tutti gli animali, uomini ovviamente inclusi, dipendono, conosciamo pochissimo, quasi nulla. È un problema enorme che ci impedisce di comprendere quanto le piante siano importanti per la vita sulla Terra e per la nostra personale immediata sopravvivenza. Percependo le piante come molto più prossime al mondo inorganico che alla pienezza della vita, commettiamo un fondamentale errore di prospettiva che potrebbe costarci caro. Per cercare di ovviare alla scarsa consapevolezza e stima che abbiamo per il mondo vegetale, poiché noi uomini comprendiamo soltanto le categorie umane, questo libro tratta le piante come se facessero parte di una nazione, ossia di una comunità di individui che condivide l'origine, i costumi, la storia, le organizzazioni e le finalità. La nazione delle piante. Guardando alle piante come si guarda ad una nazione umana, i risultati sono sorprendenti. La nazione delle piante, con il suo tricolore verde, bianco e blu, sono i colori del nostro pianeta e dipendono dalla presenza delle piante, rappresenta la più popolosa, importante e diffusa nazione della Terra. Soltanto gli alberi sono oltre 3.000 miliardi. Costituita da ogni singolo essere vegetale presente sul pianeta, è la nazione da cui ogni altro organismo vivente dipende. Credevate che le superpotenze fossero le vere padrone della Terra o pensavate di dipendere dai mercati degli Stati Uniti, Cina e Unione Europea? Beh, vi sbagliate. La nazione della piante è l'unica, vera ed eterna potenza planetaria. Senza le piante, gli animali non esisterebbero. La vita stessa sul pianeta, forse, non esisterebbe. E qualora esistesse, sarebbe qualcosa di terribilmente diverso. grazie alla fotosintesi, le piante producono tutto l'ossigeno libero presente sul pianeta e tutta l'energia chimica consumata dagli altri esseri viventi. Esistiamo grazie alle piante e potremo continuare ad esistere soltanto in loro compagnia. Avere sempre chiara questa nozione ci sarebbe di grande aiuto. Anche se si comporta come lo fosse, l'uomo non è affatto il padrone della Terra, ma soltanto uno dei suoi condomini più spiacevoli e molesti. Così, dal momento del suo arrivo, circa 300.000 anni fa, nulla se confrontati con la storia della vita, nulla se confrontati con la storia della vita che risale a 3 miliardi e 800 milioni di anni fa, l'uomo è riuscito nella difficile impresa di cambiare così drasticamente le condizioni del pianeta da renderlo un luogo pericoloso per la sua stessa sopravvivenza. Le cause di questo comportamento, sconsiderato, sono in parte insite nella sua natura predatoria e, in parte, credo, dipendano dalla totale incomprensione delle regole che governano l'esistenza di una comunità di viventi. Ultimi arrivati sul pianeta, ci comportiamo come dei bambini e combiniamo disastri, inconsapevoli del valore e del significato delle cose con cui giochiamo. Ho immaginato che le piante, come genitori premurosi, dopo averci reso possibile vivere e resesi conto della nostra incapacità di svilupparci autonomamente, corrano di nuovo in nostro soccorso, regalandoci delle regole, in verità la loro stessa costituzione, da seguire come vademecum per la sopravvivenza della nostra specie. Il libro che avete in mano tratta proprio di questo, degli 8 fondamentali pilastri su cui si regge la vita delle piante. Uno in più rispetto ai 7 pilastri della saggezza di Thomas Edward Lawrence, il famoso Lawrence d'Arabia, ma senza alcuna pretesa di saggezza, quanto soltanto di opportunità. Immaginare una costituzione scritta dalle piante, cui io presto l'opera di tramite con il nostro mondo, è l'esercizio giocoso dal quale nascono le pagine di questo libro. Una costituzione scritta dalle piante e invece delle piante, da chi non conosce nulla di materie giuridiche. Mio fratello, che al contrario è un dottissimo super magistrato, mi ha subito avvertito dei pericoli che correvo andando a giocare con i testi sacri e consigliato di lasciar perdere. Da buon fratello non l'ho ascoltato, così ora non mi resta che sperare nella clemenza della corte per le inevitabili imprecisioni che sono riuscito a piazzare nei pochi articoli sui quali si regge la nazione delle piante. Si tratta di una costituzione breve, che basandosi sui principi generali che regolano la convivenza delle piante, stabilisce delle norme che hanno come soggetto tutti gli esseri viventi. L'uomo, infatti, non è il centro dell'universo, ma solo una fra le tante milioni di specie che popolano il pianeta, formano la comunità dei viventi. È questa comunità il soggetto della costituzione vegetale. Non una singola specie o pochi gruppi di specie, ma tutta la vita nel suo insieme. Rispetto alle nostre costituzioni che pongono l'uomo al centro dell'intera realtà giuridica in conformità a un antropocentrismo che riduce a cose tutto quanto non sia umano, le piante ci propongono una rivoluzione. Come in quelle frasi in cui basta cambiare il tono o la cadenza su una singola parola perché il significato complessivo che se ne ricava sia diametralmente opposto, così la costituzione delle piante, cambiando l'enfasi dalla singola specie alla comunità, ci aiuta a comprendere le regole che governano la vita. Nelle pagine che seguono troverete gli articoli della Costituzione della Nazione delle Piante, così come mi sono stati suggeriti dalle piante stesse, nella mia ormai pluridecennale consuetudine con queste care compagne di viaggio. Ogni articolo è accompagnato da una breve spiegazione che dovrebbe aiutare a chiarirne la comprensione. Buona lettura! Carta dei diritti delle piante. Articolo 1. La terra è la casa comune della vita. La sovranità appartiene ad ogni essere vivente. Articolo 2. La nazione delle piante riconosce e garantisce i diritti inviolabili delle comunità naturali come società basate sulle relazioni fra gli organismi che le compongono. Articolo 3. La nazione delle piante non riconosce le gerarchie animali fondate su centri di comando e funzioni concentrate e favorisce democrazie vegetali diffuse e decentralizzate. Articolo 4. La nazione delle piante rispetta universalmente i diritti dei viventi attuali e di quelli delle prossime generazioni. Articolo 5. La nazione delle piante garantisce il diritto all'acqua, al suolo e all'atmosfera puliti. Articolo 6. Il consumo di qualsiasi risorsa non ricostituibile per le generazioni future dei viventi è vietato. Articolo 7. La nazione delle piante non ha confini. Ogni essere vivente è libero di transitarvi, trasferirsi, vivervi senza alcuna limitazione. Articolo 8. La nazione delle piante riconosce e favorisce il mutuo appoggio fra le comunità naturali di esseri viventi come strumento di convivenza e di progresso. Articolo 1. La terra è la casa comune della vita. La sovranità appartiene ad ogni essere vivente. Una superficie di 510 milioni di chilometri quadrati, quasi 1.100 miliardi di chilometri cubici di volume, una massa di 5,97 per 10 alla 24 chilogrammi. Sono queste le dimensioni della nostra casa comune. A prima vista potrebbe sembrare enorme, ma non è così. Quando ne confrontiamo le dimensioni con quelle di altri corpi celesti a noi vicini, ad esempio il Sole, il cui volume è oltre 1.300.000 volte più grande di quello della Terra, appare per quello che è realmente un piccolo pianeta, ma dalle qualità particolari. È infatti l'unico posto dell'universo finora conosciuto che abbia sviluppato la vita. Soprattutto è l'unico su cui la vita sembri prosperare. Non sono le dimensioni, ma è la vita a rendere speciale il nostro pianeta. L'unicità della Terra, la mancanza di alternative credibili in grado di ospitare la vita, Nonostante quanto si sente comunemente dire circa le possibilità di terraformare Marte o altri improbabili corpi celesti, fa sì che l'intero pianeta dovrebbe essere considerato un bene comune, intangibile, curato e custodito come si conviene all'unica casa possibile per la vita. Una casa, peraltro, molto fragile, limitata ad uno straterello superficiale che all'incirca va da 10.000 metri sotto il livello del mare a 10.000 al di sopra di esso. 20 chilometri totali che racchiudono l'unico luogo dell'universo, per quanto ci riguarda, all'interno del quale la vita esiste. In molti sono convinti che l'universo sia pieno di vita. Serissimi calcoli ci raccontano di un universo più affollato della metropolitana di Tokyo nell'ora di punta. Può darsi. Io non ci scommetterei. L'ossessione per la vita aliena non è ad oggi supportata da una singola evidenza, mentre la famosa domanda di Fermi, dove sono tutti, continua ad essere più valida che mai. Questo continuo discutere di pianeti simili alla Terra, dove la vita già potrebbe esistere o dove, in ogni caso, potrebbe tranquillamente attecchire, credo rappresenti una specie di rassicurazione per i disastri che stiamo combinando. Un'assicurazione che il nostro futuro, comunque vada, anche se finiremo le risorse di questo pianeta, da qualche parte potrà continuare. Nonostante non esista una sola evidenza dell'esistenza di vita al di fuori della Terra, provate a parlarne con chiunque si interessi al problema e inizierà a fare calcoli che, partendo dai milioni di miliardi di galassie dell'universo e passando dal numero di probabili pianeti abitabili, escludendo quelli che non hanno temperature compatibili con la vita, quelli troppo giovani, quelli troppo vecchi, quelli che ci stanno antipatici, eccetera, eccetera, arriverà alla fine ad indicarci un numero altissimo, non di pianeti che ospitano la semplice vita, ma di civiltà intelligenti ed evolute, almeno quanto la nostra. La madre di tutte queste equazioni, giusto per farvi capire come funziona il ragionamento, è la famosissima equazione formulata negli anni 60 dall'astronomo Frank Drake. N uguale R per FP per NE per FL per FI per FC per L. Questa equazione afferma che il numero di civiltà, ovvero N, nella nostra galassia che potremmo riuscire a contattare può essere determinato moltiplicando il tasso medio di formazione stellare della nostra galassia, ovvero R, la frazione di quelle stelle che hanno pianeti, ovvero FP, il numero di pianeti che possono effettivamente supportare la vita, ovvero NE, il numero di pianeti su cui si è effettivamente sviluppata la vita, FL, la frazione di pianeti che ha sviluppato la vita intelligente, FI, il numero di civiltà che svilupperebbero delle tecnologie di trasmissione, FC, e infine la stima della durata di queste civiltà evolute. Ovviamente, in funzione dei valori che si attribuiranno ai diversi parametri, si potranno ottenere galassie brulicanti di vita intelligente o, al contrario, probabilità prossime allo zero che essa esista. Allora, mettiamo da parte i calcoli. Negli ultimi decenni la conoscenza dei nostri vicini spaziali si è accresciuta esponenzialmente. E tuttavia, mai nessuna prova dell'esistenza di vita. Nell'estate del 2015 la sonda spaziale della NASA, New Horizons, arrivava a soli 12.500 km da Plutone, il più distante dei pianeti. Rimandandoci indietro, a coronazione di una lunga serie di esplorazioni, le prime informazioni dirette e foto ravvicinate di questo nostro distante parente planetario. Una sonda è atterrata sulla cometa 67P Churyumov-Gerasimenko. Giuno è entrata in orbita intorno a Giove. I due rover Opportunity e Curiosity da anni ci trasmettono dati sulla composizione del suolo marziano e sono stati da poco raggiunti da un terzo veicolo, InSight, che studierà il sottosuolo di Marte. Il risultato per me più interessante di questa incessante esplorazione del sistema solare è che la composizione di ognuno dei luoghi visitati appaia sempre molto più semplice di quella della Terra. La complessità del nostro pianeta è data dalla vita. Gli esseri viventi sono talmente connessi con la trama della Terra che provare a immaginarla sterile, al di fuori di qualche apocalittico romanzo di fantascienza, è impossibile. Se fosse priva di vita, la Terra assomiglierebbe a qualcosa a metà fra Venere e Marte. Sarebbe sempre azzurra? Sembra di no. Di sicuro non sarebbe verde. Che effetto avrebbe sul pianeta la completa assenza di ossigeno libero? L'ossigeno che respiriamo, infatti, è prodotto interamente dagli esseri viventi. A voler essere precisi, da quelli in grado di effettuare la fotosintesi. La mancanza di ossigeno, che effetto avrebbe sull'acqua, sulle rocce, sul suolo del nostro pianeta? Nessuno è in grado di rispondere a questa domanda. La verità è che molto di ciò che vediamo sulla Terra è il risultato dell'azione di organismi viventi. I fiumi, le coste, le montagne stesse sono disegnate dall'azione della vita. Le bianche scogliere di Dover, così come molte delle falesie continentali, sono formate dall'accumulo sedimentario degli scheletri di innumerevoli coccolitofori, alghe unicellulari ricoperte da scaglie di carbonato di calcio. Molto, se non tutto il travertino, si è formato attraverso l'azione delle alghe. Pirite e marcasite nelle rocce sedimentarie derivano dalla riduzione del solfato batterico. Insomma, chiamare il nostro pianeta Gaia e considerarlo un unico essere vivente non è affatto una teoria piuttosto naif, come è stata percepita da molti in passato, quanto un serissimo modo di interpretare l'importanza e la funzione della vita sulla Terra. Nel 2013, su New Scientist, Bob Holmes descrisse sulla base di solide informazioni scientifiche un possibile scenario sul futuro della Terra, qualora la vita dovesse estinguersi. Senza piante e altri organismi fotosintetizzanti, la produzione di ossigeno si esaurirebbe rapidamente e nell'atmosfera si accumulerebbe quantità crescenti di CO2. Le temperature crescenti farebbero sciogliere le calotte polari. Il suolo si riverserebbe nei mari per mancanza di struttura, lasciando una superficie di roccia nuda e di sabbia molto simile alle foto della superficie di Marte che ci mandano i rover. Su intervalli di tempo di alcune decine di milioni di anni, Holmes ipotizza un pianeta sottoposto ad un effetto serra fuori controllo, con condizioni così estreme, simili a quelle di Venere, da rendere la Terra permanentemente inabitabile. Bene, ma allora pongo di nuovo la domanda di Fermi. Dove sono tutti? Pensare che la vita sia così comune nell'universo immagino sia anche la conseguenza della scarsa considerazione che, in fondo, abbiamo per il nostro meraviglioso pianeta. Paradossalmente, poiché ci viviamo, pensiamo che debba essere qualcosa di comune. Conoscete la teoria della bolla di filtraggio? Non si parla d'altro da quando Trump ha vinto le elezioni. Si è rimasto stordito dal fatto che Trump sia diventato presidente degli Stati Uniti? Vuol dire che vivi in una bolla che non ti fa percepire correttamente la realtà. Nella sua formulazione originale, la teoria della bolla è stata formulata per la prima volta nel 2011 da Elie Pariser, nel suo libro The Filter Bubble, What the Internet is Hiding from You. In estrema sintesi, la tesi di Pariser è che da quando le nostre opinioni si formano su Internet, corriamo il rischio di essere isolati da informazioni che non sono vicine al nostro mondo culturale o ideologico, la nostra bolla. Utilizzando le informazioni provenienti dalle ricerche passate, dai nostri contatti, dagli indirizzi visitati, eccetera, le intelligenze artificiali che amministrano molti dei principali siti internet ci propongono soltanto quello che ritengono possa piacerci o interessarci, isolandoci di fatto da ogni esposizione a nuove idee o lontane dal nostro modo di vedere il mondo e modificando così la nostra percezione della realtà. Una teoria valida, ma che non limiterei a internet. La verità è che ognuno di noi, internet o meno, vive dentro una sua bolla, frequentando persone che la pensano in maniera simile, con gusti conformi e attitudini compatibili con le nostre. Vivendo nelle nostre bolle, riteniamo che ciò che noi percepiamo come normale e condiviso rappresenti l'intera realtà. E poi arriva Trump a farci capire che non è vero. Bene, ora che abbiamo capito cosa è una bolla, applichiamone il significato a tutta la comunità degli umani. Noi tutti viviamo in una bolla di vita. Noi uomini siamo vivi, le piante sono vive, gli insetti, i pesci, gli uccelli, i microbi sono vivi. Non esiste luogo della Terra in cui non ci siano miriadi di forme di vita. La nostra bolla è talmente immersa nella vita da farci ritenere che questa sia la condizione normale dell'universo. Non riusciamo ad immaginarci come i depositari di una sorte unica e fortunata. E invece potremmo benissimo essere dentro una bolla formata dai beneficiari di un enorme, incommensurabile colpo di fortuna. La sola bolla formata da esseri viventi dell'universo. L'unica bolla, in altre parole. Lo so, soltanto a dirlo sembra impossibile. È un po' come se ci annunciassero che abbiamo appena vinto il primo premio di un fantastiliardo della Lotteria Galattica. Nessuno dotato di buonsenso ci crederebbe. Come Maria Antonietta che non capiva perché il popolo non si nutrisse di brioche. Errori di percezione che possono costare la testa. Fatta chiarezza sull'immensa fortuna di cui siamo depositari, si tratta di capire a chi appartenga. Chi è il responsabile di questa casa comune? In altre parole, a chi appartiene la sua sovranità? La nostra più ovvia risposta è che la Terra appartiene all'uomo. Ossia che l'Homo sapiens è l'unica specie titolata a disporre del pianeta in funzione delle sue necessità. L'affermazione è talmente banale che non avrebbe bisogno di ulteriori prove a supporto. Quando mai il destino delle altre specie ha rappresentato un limite alle nostre azioni? Ci siamo sempre definiti signori della Terra, e anche se magari i più progressisti fra di noi potrebbero provare un certo pudore a considerarsi signori di qualche cosa, questa è comunque la nostra intima convinzione. Vedrete. La Terra è cosa nostra. Ne abbiamo diviso la superficie in stati e ne abbiamo assegnato la sovranità ai diversi gruppi umani che a loro volta l'hanno affidata a un limitatissimo numero di persone. Sono queste, pertanto, che detengono la reale sovranità della Terra. Poche persone sono responsabili della sovranità dell'unico pianeta dell'universo sul quale la vita esiste. Non so quanto l'assurdità della faccenda vi colpisca, perché a me talvolta a pensarci mi prende come un capogiro e mi sento come se fossi stato dislocato in uno di quegli infiniti universi paralleli in cui la logica non funziona nel modo a cui siamo abituati. Un universo governato da regole pazzesche, anche se meno affascinanti di quelle del Paese delle Meraviglie di Alice. Innanzitutto, da dove proviene questa investitura che ci rende signori del pianeta? Lo siamo per nascita o per diritto divino? o forse per manifesta superiorità sulle altre specie, alle cui carenze intellettuali dobbiamo supplire come bravi tutori. O magari è semplicemente una sana questione di democrazia e dipende dal nostro numero. Lasciando da parte diritto di nascita e diritto divino, sui quali non si può esercitare alcuna verifica logica, rimangono essenzialmente due possibilità. La prima: siamo i signori della Terra perché siamo la specie più numerosa. Chiamiamola opzione democratica. E poi la seconda: siamo i signori della Terra perché siamo migliori di ogni altra specie vivente del pianeta. Chiamiamola opzione aristocratica, che mi rendo conto include per la felicità dei più nostalgici anche il diritto di nascita e il diritto divino. Iniziamo dall'opzione democratica, anche se sono certo che la maggior parte dei miei colti lettori ha già chiaro che non può essere questa la soluzione. L'uomo, con i suoi oltre 7 miliardi e mezzo di esemplari, rappresenta una quantità di biomassa, ossia massa vivente, pari a un 10 millesimo dell'intera biomassa del pianeta. Dei 550 gigatoni, e un gigatone è pari a 1 miliardo di tonnellate, quindi dei 550 gigatoni di biomassa carboniosa sulla Terra, gli animali costituiscono circa 2 gigatoni, con gli insetti che ne formano circa la metà e i pesci che contano per altri 0,7 gigatoni. Tutto il resto, che include mammiferi, uccelli, nematodi, molluschi, consiste in 0,3 gigatoni. I funghi da soli hanno una biomassa 6 volte superiore a quella degli animali, ovvero 12 gigatoni. Le piante, 450 gigatoni, rappresentano oltre l'80% della biomassa della Terra, mentre gli uomini, con i loro 0,06 gigatoni, contano per lo 0,01%. È chiaro che non è in virtù del nostro numero che esercitiamo la sovranità sul pianeta. Per numero e rilevanza, la sovranità della Terra dovrebbe appartenere alle piante. Scartata l'opzione democratica per ovvia inconsistenza, rimane in vita quella aristocratica. Dal greco aristos, migliore, e kratos, potere. Noi uomini siamo i signori della Terra perché siamo migliori di qualunque altra specie mai esistita. Sono certo che l'opzione aristocratica appaia molto più convincente e robusta. Chi mai fra noi uomini non è intimamente convinto di essere migliore di qualunque altra specie vivente? Non scherziamo. Possiamo essere ambientalisti, fricchettoni, verdi, mistici, materialisti, religiosi, atei, anarchici o realisti. Ma su una cosa siamo tutti d'accordo. Siamo migliori di scimmie, di mucche, albicocchi, felci, batteri e muffe. Anche in questo caso, l'affermazione sembra così evidente da non aver bisogno di essere ulteriormente sostanziata. Noi uomini siamo migliori di qualunque altra specie vivente. C'è poco da discutere. Siamo migliori perché il nostro grande cervello ci permette di fare cose che sono impossibili a chiunque altro. Grazie al nostro possente encefalo, non abbiamo forse dipinto la Cappella Sistina o scolpito la Venere di Milo, ideato la teoria della relatività, scritto la Divina Commedia, costruito le piramidi, ragionato sulla nostra esistenza? Quale altro essere vivente sarebbe in grado di fare qualcosa di simile? Quale altra specie potrebbe mai chiedersi a chi appartenga la sovranità del pianeta? Non ci possono essere dubbi al riguardo. L'uomo è migliore di qualunque altro organismo vivente. È in virtù di questa assoluta prevalenza che possediamo la signoria del pianeta. Eppure, proviamo per un attimo a spostare lo sguardo dal fulgore della nostra unicità. Non più abbagliati dalle meravigliose conquiste umane, proviamo a ragionare su cosa voglia dire esattamente essere migliori. Il concetto di migliore, inevitabilmente, richiede un obiettivo. In una gara di velocità, sui 100 metri, chi impiega 10 secondi a percorrerli è migliore di chi ce ne mette 11. In una gara di salto in alto, chi salta 2 metri è migliore di chi ne salta 1,90. Federer è indiscutibilmente migliore di qualunque altro tennista. Dostoevskij è il migliore di quasi tutto il resto. Ma nella storia della vita, cosa vuol dire essere migliore? Anzi, il concetto di migliore ha senso nella storia dell'evoluzione della vita? Poiché deve esistere un obiettivo perché abbia un senso, qual è l'obiettivo della vita? Sembra una di quelle terribili questioni esistenziali dalle quali non si cavano più le gambe. E invece la risposta è semplicissima. L'obiettivo della vita è la sopravvivenza della specie. Darwin ci dice che l'evoluzione premia il più adatto a sopravvivere. L'organismo migliore, quindi, è il più adatto a sopravvivere. Abbiamo fatto un bel passo in avanti. Ora che sappiamo qual è l'obiettivo, dovrebbe essere facile continuare nella dimostrazione di una nostra eventuale superiorità. Chiunque di noi, infatti, ritiene che possedere un cervello così sviluppato sia sicuramente un vantaggio nella lotta per la sopravvivenza. Ma ne siamo certi? Perché siamo così incrollabili in questa sicurezza della nostra superiorità? Non è che stiamo cadendo in un'altra di queste molte distorsioni cognitive, tipo la bolla di filtraggio di poco prima, che sembrano affliggere il nostro glorificato cervello? Ad esempio, esiste una disfunzione cognitiva chiamata effetto Dunning-Kruger, che induce negli individui poco esperti di un argomento una netta sopravvalutazione delle proprie competenze in quello stesso campo. Per carità, non è che prima di Dunning e Kruger nessuno se ne fosse accorto. Da Socrate in poi è un susseguirsi di so di non sapere, ma evidentemente ricordarlo non è mai superfluo. In ogni caso, meglio sempre affidarsi a dei dati oggettivi, piuttosto che autodichiararsi superiori, rischiando di cadere anche noi nell'effetto Dunning-Kruger. Poiché abbiamo detto che l'obiettivo della vita è la sopravvivenza, ne consegue che le specie eventualmente migliori delle altre sono quelle che riescono meglio nel raggiungimento di questo obiettivo. Bene, il problema è ormai chiaro. Basta sapere quanto sopravvive una specie sulla Terra e, paragonandola all'uomo, dovremmo essere capaci di stilare una graduatoria delle specie migliori. Non è facile ottenere dati certi sulla vita media delle specie, tuttavia stime attendibili ci dicono che fra gli animali si va da 10 milioni di anni degli invertebrati a 1 milione di anni dei mammiferi. Più complesso è ottenere dati riguardanti il mondo vegetale, poiché le piante in media sopravvivono molto più a lungo degli animali. Il ginkgo biloba ha probabilmente oltre 250 milioni di anni. Gli equiseti erano già diffusi 350 milioni di anni fa. Una felce, l'Osmunda cinnamomea, è stata ritrovata in rocce fossili di 70 milioni di anni fa. In generale, si stima che la vita media di una specie, non importa se animale o vegetale, sia pari a 5 milioni di anni. Ora che abbiamo i dati in mano, chiediamoci quanto ancora immaginiamo che l'uomo possa sopravvivere come specie. Ovviamente, qui i dati non possono venirci in aiuto. Tuttavia, sono certo che se chiedessimo alle stesse persone che sono intimamente convinte della superiorità dell'uomo, se credono che sopravviverà per altri 100.000 anni, le risposte non sarebbero così ottimistiche. Come mai? Perché percepiamo come improbabile che la nostra specie riesca a sopravvivere anche soltanto altri 100.000 anni, quando per raggiungere la media delle altre specie viventi ce ne potremmo legittimamente attendere altri 4.700.000. Credo dipenda dai disastri che siamo riusciti a combinare sul pianeta in un lasso di tempo così incredibilmente breve come gli ultimi 10.000 anni. Ossia dal momento in cui l'uomo, creando l'agricoltura, ha iniziato ad incidere profondamente sull'ambiente in cui vive. Non crediamo che riusciremo a sopravvivere come specie così a lungo perché abbiamo ben presente che il nostro grande cervello, di cui siamo così orgogliosi, è stato in grado di produrre, oltre alla Divina Commedia, anche una serie di innumerevoli pericoli che in qualunque momento potrebbero spazzarci via dal pianeta. Così le scimmie, le mucche, gli albicocchi, le felci, i batteri e le muffe, di cui parlavamo prima, continueranno ad estinguersi soltanto in coincidenza di catastrofi apocalittiche, la cui frequenza sulla Terra si misura in milioni di anni, mentre noi rischiamo in ogni momento di sparire. E se svanissimo domani, fra 1.000 anni o fra 100.000, in altri 100.000 anni cosa rimarrebbe della Cappella Sistina, della Venere di Milo, della teoria della relatività, della Divina Commedia, delle piramidi e di tutti i nostri ragionamenti? Nulla. A chi importerebbe di queste meraviglie? È per questo che la molto saggia Nazione delle Piante, nata centinaia di milioni di anni fa, di anni prima di qualunque nazione umana, garantisce a tutti gli esseri viventi la sovranità sulla Terra, per evitare che delle singole specie molto presuntuose possano estinguersi prima del tempo, dimostrando che il loro grosso cervello non era affatto un vantaggio, ma uno svantaggio evolutivo. I always wake up in my head. Siete sempre su Radio Wombat, la radio libera e autogestita di Firenze. Ci trovate in streaming sul sito radiowombat.net, altrimenti dalle frequenze AM 1359 nell'area fiorentina e dintorni. Qui siete su Nervature, io sono Addu. Questa è la prima puntata dell'audiolibro La Nazione delle Piante dell'autore Stefano Mancuso, edito nel 2019 da La Terza. Articolo 2. La Nazione delle Piante riconosce e garantisce i diritti inviolabili delle comunità naturali come società basate sulle relazioni fra gli organismi che le compongono. Sono sicuro che molti fra gli eruditi lettori di questo libretto conosceranno e a menadito l'origine delle specie di Charles Darwin. Se qualcuno dovesse avere ancora questa lacuna nella sua formazione, che corre immediatamente a colmarla senza perdere altro tempo. Si tratta di un libro fondamentale per la comprensione di come funzioni la vita. Ed è sorprendente pensare come questo libro, che ha letteralmente cambiato la storia del mondo, sia in realtà soltanto un riassunto delle innumerevoli osservazioni che Darwin per decenni raccolse in qualsiasi ambito scientifico ed in qualunque luogo del mondo, a supporto della sua teoria dell'evoluzione delle specie viventi. Il suo piano, infatti, era di scrivere un'opera colossale e dettagliatissima che avrebbe riportato i frutti dei suoi decenni di ricerche, inattaccabile da qualunque critica. Come è noto, le cose andarono diversamente. L'annuncio di Wallace di essere arrivato alle sue stesse conclusioni riguardanti l'evoluzione indusse Darwin a rivedere i suoi piani, costringendolo a riassumere nell'origine le sue deduzioni più brillanti e meglio supportate da evidenze e rimandando il resto del materiale a successive elaborazioni. L'enorme corpus a cui stava lavorando, tuttavia, non andò perduto. Anzi, i primi due capitoli della sua opera magna, che si sarebbe dovuta semplicemente chiamare Selezione naturale, diventarono i due volumi di La variazione degli animali e delle piante allo stato domestico, e molto del restante materiale venne riadattato nella elaborazione della sua successiva produzione. In ogni caso, nel terzo capitolo dell'Origine della specie, dedicato alla lotta per l'esistenza, la famosa Struggle for Existence, che rappresenta un motivo dominante dell'intera opera, Darwin ci racconta una magnifica storia di relazioni, fondamentale per comprendere quali siano i legami fra i viventi e come siano difficili da immaginare le conseguenze quando si intervenga su quelle stesse relazioni. Scrive Darwin: «Quali animali potreste immaginare più distanti fra di loro che un gatto ed un bombo? Eppure, le relazioni che legano questi due animali, anche se a prima vista inesistenti, sono, al contrario, talmente strette che qualora venissero modificate, le conseguenze sarebbero così tante e profonde da non poter essere neanche immaginate. I topi, argomenta Darwin, sono fra i principali nemici dei bombi, di cui mangiano le larve e distruggono i nidi. D'altronde, i topi, lo sanno tutti, sono la preda preferita dei gatti. Ne deriva che in prossimità dei villaggi, dove ci sono più gatti, si trovano meno topi e di conseguenza più bombi. Chiaro finora? Bene, proseguiamo. I bombi rappresentano i principali impollinatori di molte specie vegetali ed è risaputo che maggiore e migliore è l'impollinazione, massimo sarà il numero di semi prodotto dalle piante. Dal numero e dalla qualità dei semi dipende la presenza più o meno grande di insetti, i quali, come è noto, sono il nutrimento principale dal quale dipendono numerose popolazioni di uccelli. Potremmo seguitare a lungo, unendo un gruppo di viventi ad un altro, per ore e ore. Batteri, funghi, insetti, pesci, molluschi, mammiferi, palme, uccelli, cereali, rettili, orchidee, si succederebbero senza pausa gli uni fra gli altri, fino a perdere il fiato. Come in quelle filastrocche che senza interruzione legano un evento a un altro. Le relazioni ecologiche che Darwin porta alla nostra attenzione raccontano di un mondo di legami molto più complessi e inafferrabili di quanto si fosse mai prima supposto. Rapporti così complessi da connettere in un'unica rete dei viventi tutto con tutto. È famosa la storiella proposta per la prima volta dai biologi tedeschi Ernst Haeckel e Carl Vogt sulla scorta delle relazioni indicate da Darwin, secondo la quale le fortune dell'Inghilterra dipenderebbero dai gatti. Questi, infatti, nutrendosi di topi, aumenterebbero la possibilità di sopravvivenza dei bombi, che impollinando i trifogli, di cui si nutrono i manzi, da cui dipende la carne che nutre i marinai inglesi, permetterebbero alla marina britannica, che come è noto rappresenta la vera forza su cui si basa la potenza dell'impero, di sviluppare tutta la propria forza. Thomas Huxley, spingendo oltre lo scherzo, aggiunse che non erano i gatti, quanto il perseverante amore delle zitelle inglesi per gli stessi, la forza dell'impero. Uno scherzo dietro al quale, tuttavia, si cela la semplice verità che tutte le specie viventi sono connesse in qualche maniera, le une con le altre, da relazioni palesi o nascoste, e che agire su una specie direttamente o semplicemente alterando nell'ambiente può avere conseguenze del tutto inaspettate. Cercare di immaginare le conseguenze finali di un'alterazione qualunque di queste relazioni, scrive Darwin, sarebbe senza speranza come gettare una manciata di segatura o di piume in una giornata di vento e tentare di prevedere dove ogni singola particella cadrà. La storia è piena dei tentativi, quasi sempre andati a finir male, di modificare la presenza o l'attività di singole specie. Prendiamo ad esempio l'affare del colore rosso. Quando Cortés e i suoi conquistadores nel 1519 entrarono per la prima volta nella capitale azteca Tenochtitlan, l'attuale città del Messico, trovarono una città popolosa. In Europa soltanto Napoli, Parigi e Costantinopoli avevano una popolazione maggiore e molto ricca. Nella enorme piazza del mercato, una quantità di prodotti mai visti prima, molti dei quali di grande valore, attendeva soltanto di essere trasportata sui mercati europei. Fra questi, balle di cotone finamente intessuto e filati delicati di uno strepitoso colore rosso carminio. La tinta utilizzata dagli Aztechi per produrre questa incredibile tonalità di rosso era ottenuta a partire da un insettino, la cocciniglia, che viveva sulle piante di fico d'India, diverse specie appartenenti al genere Opuntia. Si trattava di un colore così bello e pregiato che gli stati assoggettati agli Aztechi erano tenuti a fornire annualmente all'imperatore, come tributo, anche un certo numero di sacchi pieni di cocciniglia. Dai corpi essiccati di questi insetti si otteneva, e si ottiene ancora, una finissima tintura di un bel colore rosso carminio. La produzione di questa tintura rimase per almeno 2 secoli e mezzo un monopolio della Spagna, che ne custodì gelosamente il segreto, e ne fece un ampio e lucroso commercio in Europa, vendendola un po' a chiunque potesse permettersela, ma soprattutto agli inglesi, che diventarono in breve i più entusiasti e appassionati acquirenti. Innamoratisi del carminio spagnolo, che utilizzavano per colorare le proprie divise, le famose red coats, giubbe rosse, trovavano il modo per acquistarla a caro prezzo, anche durante le frequenti guerre contro la Spagna, in cui quelle stesse divise erano utilizzate. Al cuor non si comanda. Quello speciale punto di carminio fornito dalle tinture spagnole non era fondamentale per l'esercito britannico. Ogni altro rosso avrebbe reso le loro giubbe meno rosse, svilendo la gloriosa nobiltà della divisa. Insomma, che figura ci avrebbero fatto in battaglia con delle divise sbiadite? I nemici sarebbero morti dalle risate, e non era il modo giusto di vincere una guerra. Con il monopolio della tintura saldamente in mano, gli spagnoli ebbero in pugno l'intero mercato e per 2 secoli e mezzo, nonostante i tanti sforzi inglesi per liberarsi da questo giogo mercantile, il segreto di quella prodigiosa tintura rimase sconosciuto a tutti tranne che a pochissimi fortunati produttori spagnoli. Ma nessun segreto di produzione può rimanere tale per sempre. E così, alla fine del XVIII secolo, le spie britanniche riuscirono, infine, a carpire la notizia tanto anelata. Per ottenere il desiderato carminio erano necessarie le cocciniglie, e per avere le cocciniglie erano indispensabili i fichi d'India. Con in mano l'informazione giusta, non rimaneva che trovare il posto dove iniziare la produzione. I luoghi non mancavano. L'impero era enorme e diffuso su tutti i continenti. La scelta cadde sulla fortunata Australia. Qui, dove il fico d'India non era mai cresciuto, ma con un clima perfetto per una sua veloce crescita, vennero importate sia le piante sia le cocciniglie. I risultati non furono quelli attesi. Le cocciniglie morirono subito, dopo essere arrivate in Australia. Mentre i fichi d'India, a questo punto inutili, vennero abbandonati al loro destino australiano. Un destino da conquistatori. A differenza delle cocciniglie, i fichi d'India infatti trovarono l'ambiente australiano perfetto per la loro diffusione. Senza alcun ostacolo o nemico naturale e con tanti uccelli che diffondevano i semi dappertutto, in pochi anni la pianta si diffuse su un territorio enorme. Arrivato in Australia nel 1788 dal Brasile, si stima che nel 1920 il fico d'India fosse diffuso su oltre 30 milioni di ettari e la sua espansione non si era affatto arrestata, continuando a conquistare nuovi territori alla velocità impressionante di 500.000 di ettari all'anno. Così, in moltissime zone coltivate, fattorie, pascoli, aree agricole del Queensland e del New South Wales, furono invasi dalle piante, scacciando i coloni e impedendo ogni tipo di attività produttiva. In breve, il problema divenne molto serio, spingendo le autorità, fin dalla seconda metà del XIX secolo, alla ricerca di possibili soluzioni. Il governo del New South Wales nel 1901 offriva 5.000 sterline a chi avesse ideato un modo per arginare l'invasione. Nel 1907, nonostante il premio fosse stato raddoppiato, nessuno ancora sembrava in grado di trovare una risposta adeguata al problema. Ovviamente le idee strampalate non mancavano. I monti si fecero avanti con trovate, diciamo così, radicali. Fra queste, aumentare il numero di conigli, altra storia interessante di introduzione di specie andata a finire male, come predatori delle piante di fico d'India, o addirittura evacuare un territorio enorme e spargere con gli aerei l'iprite, il gas che era stato ampiamente utilizzato durante la Grande Guerra. per sterminare la popolazione animale, responsabile della diffusione dei semi del fico d'India. Per fortuna, nessuna di queste idee fu presa in considerazione e per decenni l'unica arma contro la devastazione avanzata della specie fu quella di tagliare e bruciare le piante. Poi, nel 1926, finalmente si trovò una soluzione. Un lepidottero, una farfalla, argentino, noto come Cactoblastis cactorum, parassita di varie specie di opuntia. Le larve di questa farfalla, nutrendosi dei cladodi, così si chiamano le foglie modificate dei fichi d'India, nel giro di una ventina d'anni debellarono il pericolo in molte zone dell'Australia. La soluzione ebbe un successo straordinario e inaspettato. In poco tempo, tranne che nelle regioni australiane più fresche dove la farfalla non si diffondeva efficacemente, la minaccia del fico d'India era stata annientata. Tutto bene, quindi? In parte. Nonostante l'introduzione della Cactoblastis in Australia sia citata come un'operazione di successo e addirittura nella città di Chinchilla, in Queensland, sia stata dedicata a questa farfalla Cactoblastis Memorial Hall, la natura vuole sempre l'ultima parola. Col tempo in Australia si sono evolute popolazioni di fico d'India resistenti al parassita. E questa è una prima complicazione, non grave, che richiederà tuttavia negli anni a venire un controllo più attento delle popolazioni di cactus. Ma la seconda e più importante difficoltà è che il successo australiano nell'uso dell'epidottero ha indotto molte altre nazioni, molte altre nazioni con problemi analoghi di diffusione del fico d'India a seguire la stessa strada, con risultati del tutto inaspettati. Come ci ricordava Darwin, cercare di prevedere cosa può accadere in una situazione del genere è come cercare di prevedere dove andrà a cadere una piuma in una giornata di vento. Negli anni 60, la Cactoblastis fu introdotta a Montserrat e Antigua come agente di controllo delle locali popolazioni di cactus. In Australia la piuma era andata a cadere nel posto giusto, in America centrale no. Dai Caraibi, infatti, la farfalla, utilizzando ogni tipo di vettore, si diffuse velocemente a Porto Rico, Barbados, Isole Cayman, Cuba, Haiti e Repubblica Dominicana. Con l'importazione di fichi d'India dalla Repubblica Dominicana è arrivata per la prima volta in Florida nel 1989 e da qui ha iniziato a spostarsi ad una velocità stimata di circa 150 km all'anno lungo le coste del Golfo del Messico. Durante il suo cammino, ormai completamente fuori controllo, questo parassita ha messo in pericolo molte popolazioni di cactus degli Stati Uniti, minacciando interi ecosistemi, alcuni dei quali unici. Un esempio classico è l'attacco ai fichi d'India di San Salvador nelle Bahamas, una delle principali fonti di cibo per le ultime popolazioni esistenti di iguane ciclura. E se non bastasse, uragani, trasporti involontari o commercio hanno recentemente trasportato la Cactoblastis in Messico, dove è stata avvistata per la prima volta sull'isola Mujeres, al largo della penisola dello Yucatan. In Messico, il fico d'India, al contrario che in Australia, è una pianta vitale. Addirittura appare sullo stemma e sulla bandiera. I suoi frutti e il cladodio sono un alimento base per la popolazione. È utilizzato per nutrire il bestiame in periodi di siccità e alcune specie di opuntia ancora sono utilizzate per l'industria della tintura della cocciniglia. Se dovesse diffondersi in Messico, i danni sarebbero enormi. Ma nessun disastro naturale fra quelli provocati dall'uomo a seguito di decisioni avventate basate su una scarsa conoscenza delle relazioni naturali potrà mai rivaleggiare con quanto combinato da Mao alla fine degli anni 50. Tra il 1958 e il 1962, il Partito Comunista Cinese guidò un movimento economico e sociale in tutto il paese, che divenne noto come il Grande Balzo in Avanti. Si trattava di un enorme sforzo collettivo che avrebbe dovuto trasformare in pochi anni la Cina da nazione agricola a grande potenza industriale, i cui risultati finirono purtroppo per essere drammaticamente lontani da quanto sperato. Le riforme attraverso le quali il partito pensava di attuare questo cambiamento radicale della nazione interessarono ogni campo della vita cinese e alcune di queste ebbero infatti effetti drammatici per il paese. Nel 1958 Mao era giustamente convinto che alcune piaghe che affliggevano i cinesi da secoli dovessero essere debellate subito e in maniera radicale. Teniamo presente che quando i comunisti presero il potere nell'autunno del 1949 trovarono una nazione gravemente menomata dall'altissima incidenza di malattie infettive. La peste, il colera, il vaiolo, la tubercolosi, la polio, la malaria erano endemici in gran parte del paese. Le epidemie di colera erano frequentissime e la mortalità infantile arrivava al 30%. La creazione di un servizio sanitario nazionale ed una massiccia campagna di vaccinazioni contro peste e vaiolo furono fra le prime, benemerite, azioni intraprese per migliorare la situazione. Si crearono dappertutto infrastrutture per la depurazione delle acque e il trattamento dei rifiuti e, imitando quanto già fatto dall'Unione Sovietica, si formò del personale medico che, inviato nelle aree rurali del paese, servì davvero e proprio amministratore della salute, educando la popolazione alle pratiche fondamentali igienico-sanitarie e curando le malattie presenti con le risorse disponibili. Ma ovviamente non poteva bastare. Bisognava limitare la diffusione dei vettori che diffondevano le malattie: le zanzare, responsabili della malaria, i topi, responsabili della peste, e infine le mosche, dovevano essere sterminati. A questi primi tre flagelli, di cui ci si doveva liberare, si aggiunse presto un quarto: i passeri, che mangiando la frutta e il riso, coltivato con fatica nei campi, rappresentavano uno dei più terribili nemici del popolo. Gli scienziati cinesi avevano calcolato che ogni passero consumava 4,5 kg di grano ogni anno. Così, per ogni milione di passeri uccisi, si sarebbe risparmiato cibo per 60.000 persone. Sulla base di queste informazioni, nacque la campagna dei quattro flagelli e i passeri rappresentarono il primo dei nemici da abbattere. Oggi, qualunque iniziativa di cambiamento dell'ecosistema così radicale come quella di eliminare ben quattro specie da un territorio vasto come la Cina sarebbe ovviamente considerata sconsiderata. Ma nel 1958 a molti sembrò un'ottima idea. In breve, la campagna del partito che chiamava a raccolta la cittadinanza per combattere questi quattro flagelli iniziò. Vennero stampati milioni di manifesti che illustravano la necessaria eradicazione e i mezzi con i quali attuarla. Per quanto riguarda i passeri, la lotta doveva essere senza quartiere e condotta con qualunque strumento a disposizione. Una delle direttive in tal senso era di spaventare i passeri con rumori, prodotti con qualsiasi mezzo, in modo che non si posassero mai e fossero costretti a volare fino a stramazzare a terra privi di forza. Pentole, casseruoli, gong, fucili, trombe, corni, piatti, tamburi, ogni possibile fonte di rumore venne utilizzata. Sentiamo come ci racconta quanto accadde un testimone russo, Mikhail A. Klokko, che lavorava come consulente a Pechino quando la grande campagna contro i quattro flagelli ebbe inizio. Sono stato svegliato al mattino presto dalle grida di una donna. Precipitatomi verso la finestra, ho visto una giovane donna che correva avanti e indietro sul tetto dell'edificio vicino, agitando freneticamente un palo di bambù con un grande lenzuolo legato. All'improvviso, la donna ha smesso di urlare, apparentemente per riprendere fiato, ma un attimo dopo, giù in fondo alla strada, un tamburo ha iniziato a battere e la donna ha ripreso le sue spaventose urla e il folle agitarsi della sua particolare bandiera. Questo è andato avanti per diversi minuti. Poi i tamburi si sono fermati e la donna ha taciuto. Mi sono reso conto che a tutti i piani superiori dell'hotel le donne vestite di bianco stavano sventolando lenzuola e asciugamani che avrebbero dovuto impedire ai passeri di atterrare sull'edificio. Questa è stata l'apertura della campagna antipassero. Durante l'intera giornata si sono sentiti tamburi, spari, urla e viste lenzuola ondeggianti, ma in nessun momento ho visto un singolo passero. Non posso dire se i poveri uccelli avessero percepito il pericolo mortale e se ne fossero andati in anticipo su un terreno più sicuro, o se non ci fossero mai stati passeri in quel luogo. Ma la battaglia proseguì senza alcun abbattimento fino a mezzogiorno, con tutta la forza lavoro dell'hotel mobilitata e partecipante. Fattorini, direttore di banco, interpreti, cameriere e tutto il resto. Anche se nel resoconto di Cloco l'attività sembra non avere una grande efficacia, i risultati furono purtroppo drammatici. Il governo acclamava le scuole, i gruppi di lavoro e le agenzie governative che raggiungevano i risultati migliori in termini di flagelli uccisi. Le stime fornite dal governo cinese, totalmente inattendibili nella loro enormità, parlavano di 1,5 miliardi di topi e 1 miliardo di passeri uccisi. Anche se enormemente esagerate, queste cifre ci raccontano comunque di un massacro le cui conseguenze drammatiche non avrebbero tardato a manifestarsi. Il passero, infatti, non si nutre solo di granaglie, anzi, il suo alimento principale sono gli insetti. Nel 1959, Mao, accorgendosi dell'errore, sostituiva al passero come flagello la cimice. Ma ormai il danno era fatto. La quasi assoluta mancanza non solo di passeri che vennero reintrodotti dall'URSS, ma di praticamente qualunque altro uccello in Cina, fece aumentare a dismisura le popolazioni di insetti. Il numero di locuste cominciò a crescere esponenzialmente e sciami immensi di insetti spostandosi per i campi della Cina distrussero la maggior parte delle colture. Fra il 1959 e il 1961, una serie di disgraziati avvenimenti, in parte legati a disastri naturali, in parte conseguenza delle errate riforme del grande balzo in avanti, fra le quali l'idea di sterminare i passeri fu senz'altro una delle peggiori, portò a 3 anni di carestia talmente dura da essere stata ritenuta la causa di morte di un numero di persone mai chiarito del tutto, ma che si ritiene essere stato fra i 20 e i 40 milioni. Giocare con qualcosa di cui non si conoscono bene i meccanismi di funzionamento è ovviamente pericoloso. Le conseguenze possono essere del tutto imprevedibili. La forza delle comunità ecologiche è uno dei motori della vita sulla Terra. A qualsiasi livello, dal microscopico al macroscopico, sono le comunità, intese come relazioni fra viventi, che permettono la persistenza della vita. Già nel 1961, uno dei primi studi che poté contare sull'uso di calcolatori elettronici per lo svolgimento dei numerosi e complessi calcoli previsti dai modelli dimostrava che comunità di organismi microscopici fluttuanti nel fiume York in Virginia non erano affatto alla mercé dell'ambiente. Al contrario, insieme risultavano 5 volte più resistenti alle fluttuazioni dell'ambiente stesso. Le relazioni fra viventi, in altre parole, formano delle comunità la cui forza è in grado di influire attivamente sull'ambiente fisico. Le comunità sono alla base della vita sulla Terra. L'intero pianeta andrebbe considerato come un unico essere vivente, è la teoria di Gaia, i cui meccanismi equilibratori, in termini più tecnici si parla di omeostasi, sono in grado di generare le forze e controforze necessarie a smorzare le oscillazioni di un ambiente continuamente mutevole. Per capirci, qualcosa di simile ai meccanismi che rendono costante la nostra temperatura, nonostante la temperatura dell'ambiente che ci circonda sia in continua variazione. La vita si è evoluta attraverso queste comunità e potrà continuare ad esistere soltanto se all'uomo sarà vietato di interferire. È per questo che la Nazione delle Piante riconosce come diritto inviolabile l'intangibilità di qualunque comunità naturale. Ho quindi concluso qui la prima puntata dell'audiolibro La Nazione delle Piante, autore Stefano Mancuso, edito da La Terza nel 2019. Le musiche che avete sentito in sottofondo erano l'album Bridge Over Troubled Water di Paul Desmond e Solarium di The Groovy Nobody. Spero che siano stati di compagnia. Dunque, quindi vi rimando alla prossima puntata di questo audiolibro, quindi rimanete, mi raccomando, connesse e connessi e connesso su Radio Wombat tramite il sito radiowombat.net e tramite le frequenze 1359 delle AM. Vi saluto quindi con un ultimo brano e a risentirci con Nervature. Buona serata.